bronca, bronca, bronca, leone, leone, leone, armata in disarmo, non sa come fare, è andata all'assalto e già si deve ritirare. Scudi sfondati, stracciati vessilli, ma smetta gli scudi per poterci riprovare. Ma è inutile tentare una sortita, amici miei che combattete a fa. Bianca Leone sceso in campo con l'armata, ma è tutta sconfossata, ma è tutta sbrindellata. Con l'invasione di lottare ora mi tocca, e sbomba con la bocca di Moa. Che il rivalvare carnevale si dà da fa, ma la gente guarda e fa, che barba l'austerità. Lascia dormire i decreti e le riforme, si punta la lancia si spunta, allora si tenta con le tasse eccezionali, ma si è capito che non serve a niente, è poco intelligente riprovar. Branca Leone sceso in campo con l'armata, ma è tutta sconfossata, ma è tutta sprindellata, con l'inflazione di lottare ora di tocca, e sbuffa con la bocca. Anche il rivalmare carnevale si dà da fa, ma la gente guarda e fa, che barba l'austerità. Guarda l'Italia come l'hanno combinata, è proprio rovinata, è proprio sangherata. Con l'una tanto l'hai provato a rimediare, però tradire il fa. Proprio sgangherata, con una tanto hai provato a rimediare.